des choses dont je vais parler aussi demain qui nous sont communes. On parlerait du traité 53. Simplement, je voudrais juste revenir sur la fin de mon intervention. Je veux être sûr d'abord d'avoir bien compris ce que tu as dit. Donc dis-moi si c'est bien cela. Tu distingues, donc, si je comprends bien dans ton hypothèse terminale, tu distingues deux phases dans la pensée personne. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est ça. Plotin serait en sorte un compagnon de route permanent de Platon. Et ensuite, c'est un autre modèle qui en fait apparaîtrait, qui est plutôt chrétien. On va chercher un autre lexique. Alors c'est une question parce que moi, à la lecture de Bergson, j'ai l'impression qu'en fait, Plotin est présent tout le temps, y compris jusqu'à la, enfin, y compris dans le traité sur les deux sources de la morale et de la religion, et qu'il l'est toujours sur un mode critique, c'est-à-dire que dès le début, en fait, Bergson utilise Plotin, mais il le met à distance, en fait, en permanence, dans le traité sur, enfin, dans l'émission créatrice, il le met à distance. Et chaque fois qu'il cite Plotin, de toute façon, il signale sa différence avec lui, quasiment toujours à ma connaissance. Et dans le traité des deux sources, c'est le cas encore. Il dit c'est un mystique incomplet. Donc, enfin, compagnon de route, mais compagnon de route avec lequel il a une distance critique dès le départ, et là-dessus, à mon avis, il n'a jamais parlé. En fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... J'ai trouvé pour tout le monde. Riprendeva il discorso fatto da Angela Longo, dicendo che Angela Longo aveva distinto due momenti sostanzialmente, no? Un momento che va fino alla Prima Guerra Mondiale, sostanzialmente, in cui Plotino sarebbe un compagno di strada di Bergson, un secondo momento in cui ci sarebbe una sorta di abbandono di Plotino per un'adesione sostanzialmente a una visione più vicina, diciamo, a una riflessione, al lessico, ecco, che riprende il lessico del cristianesimo piuttosto che quello di Plotino. Angela Longo diceva che per dire le stesse cose si sarebbe potuto fare riferimento ancora a Plotino, quindi è molto come dire, significativo il silenzio o il presunto silenzio di Bergson su Plotino. Invece veniva osservato adesso che secondo la sua opinione Plotino è sempre stato presente nel cammino di Bergson, è sempre stato presente in modo critico, cioè fin dall'inizio è stato presente Plotino, ritroviamo Plotino ancora nelle due fonti della morale e della religione, e la caratteristica di questa presenza di Plotino, se ho ben capito, è di essere presente in un modo critico, cioè attraverso una sorta di costante revisione. Ecco, io qui attirerei quello che mi sentirei di dire anch'io alla luce di questo intervento, che probabilmente proprio di questo sono d'accordo, cioè secondo me Plotino è stato presente sempre nel percorso di persone e il rapporto Plotino-Bergson non è assimilabile ad altri rapporti che potrebbero essere citati, no? Cioè, come dire, Bergson e Kant, no? Cioè, Plotino è strutturalmente presente nell'opera di Bergson, anche perché, poi ne parleremo nelle prossime puntate del nostro colloquio, in gran parte, a mio avviso, il pensiero bergsoniano è una revisione critica. È una sorta di proprio di revisionismo di Plotino e il rapporto. E quindi anch'io mi associerei in qualche modo alla osservazione che è stata appena fatta, cioè mi sentirei di dire che Plotino è presente, quindi sarei iperplotiniano, quindi mi hai sedotto da questa Plotino è presente nel corso dell'intera evoluzione del pensiero di Bergson. Pensavo ad esempio che dicevo l'evoluzione creatrice, il quarto capitolo dell'evoluzione creatrice è un incredibile faccia un confronto con la metafisica plotiniana ed è in qualche modo il capitolo che in qualche modo ricostruisce tutta la storia della metafisica a partire da Bergson. Giusto, no, non è la risposta, è un'osservazione. Allora, è un'impressione, però la mia impressione è che finché lui insegna Plotino, c'è da distinguere il Bergson dei corsi e il Bergson delle sue opere, e lui stesso lo dice in una lettera del 1915, mi sembra, un certo Calenna, non mi ricordo, cioè lui, Bergson, dice per me Plotino è vivissimo, ne ho parlato nei corsi, quasi per nulla nei miei scritti. Allora, secondo la mia impressione, quando Bergson spiega Plotino è più in un rapporto simpatetico con Plotino, si nutre lui stesso più di Plotino. Quando va a scrivere le sue opere personali, è lì che invece prende le distanze da Plotino. Quindi, diciamo, è vero che negli scritti bersoniani, che non sono i corsi, nei suoi propri saggi, parla di Plotino prendendone le distanze dall'inizio alla fine della sua produzione. Quando io parlavo di Plotino come compagno di strada di Bergson, io intendevo la fase propriamente, o l'attitudine propriamente, come dire, simpatetica più che critica, e particolarmente legata all'esperienza dei corsi e dell'insegnamento, sicché le due cose, se vuoi, possono, però diciamo. Dell'apprendimento dell'uso degli strumenti. Cioè, chiaramente io parlo da una prospettiva moderna, ma appunto un artigiano impara a utilizzare lo strumento. Difendere una tesi strumentalista così forte, poi giungere a difenderla in Plotino con un dualismo molto radicale, ci pone di fronte all'evidenza che in che modo impariamo a usare lo strumento nel nostro corpo. Cioè, sembrerebbe che appunto che non impariamo a usare questo strumento nel modo in cui, ad esempio, un artigiano impara lo scappello o cose di questo tipo. E dunque ci si potrebbe appunto interrogare se questo rapporto, non solo diciamo il rapporto dell'affezione, che è un rapporto relativo alla passività, ma invece relativamente all'azione, quindi rispetto alle capacità, non possa, ecco, mettere, non debba mettere in una luce un po' diversa il problema di che cos'è lo strumento. Sì, è un dato di fatto che noi abbiamo una familiarità con il corpo, anche volendolo considerare uno strumento dell'anima, infinitamente maggiore della familiarità che abbiamo con un martello, una macchina a cui ci dobbiamo abituare e dobbiamo imparare da un altro che la sa usare come funziona, mentre nasciamo e cominciamo a usare gli occhi, le orecchie, senza manco fare ragionamenti. Non di meno, come dicevo, che quando Plotino parla di anima e corpo nell'uomo nei termini dello strumentalismo, se volete, tratta il corpo come un estraneo, in questo senso. Primo, che raccomanda, cioè, secondo Plotino, ecco, ora per usare un'espressione abruzzese, l'anima non nasce imparata rispetto al corpo. Perché? Perché sarà tutto il percorso filosofico che dura una vita a insegnare all'anima come usare propriamente del corpo. Perché se non c'è la presa di distanza del corpo, se non c'è il cammino filosofico, l'anima sarà sopraffatta dal corpo, sarà la sua schiava, il corpo le comanderà e l'anima starà solo a fare l'ancella dei bisogni del corpo, che vuole mangiare, vuole bere, vuole dormire, vuole ghiotto, eccetera. L'anima deve invece, tramite un percorso filosofico, capire che è diversa dal corpo, i suoi bisogni sono diversi da quelli del corpo, che lei vale più del corpo, che è lei che deve comandare il corpo obbedire, che deve appunto applicare la separazione filosofica dal corpo, riducendo il corpo ai bisogni essenziali. Dice Plotino, senza arrivare a suicidarsi, meno male, perché secondo corpo comunque va rispettato e nutrito, ma estremamente arginato, perché l'anima possa capire chi è lei, l'entità intelligibile votata alla conoscenza. Quindi effettivamente il problema che poni tu è reale e domanda una vita, perché l'uomo sappia usare correttamente il corpo. Al limite implotino, dopo 5 anni di apprendimento da un falegname, uno sa usare gli strumenti del falegname, ma ci vuole una vita per essere un vivente dove l'anima comanda il corpo. Quindi direi che proprio questa è la linea di demarcazione fra l'anima dell'uomo e quella dell'animale. L'anima dell'animale, per riprendere la tua espressione, come hai detto, nasce imparata. Nasce imparata. L'animale sa che se sente un rumore deve fuggire, l'uomo no. E quindi direi che questa è appunto la linea di demarcazione. Io rispondo così a Nas, poi saranno i personiani a rispondere. Secondo me, invece, cioè, io non escludo che quando Plotino parla positivamente dei fatti, che quando Bergson parla dei fatti suoi, lui sta dicendo Plotino, poi lo cita Plotino solo quando lo deve criticare. Però, un ente creatore che spontaneamente crea, e questo è il demiurgo plotiniano, a mio avviso. Poi i bergsoniani. Bergsoniana non è quella del rapporto tra corpo e anima, la vera questione bergsoniana è, se vogliamo, quella dell'uso dei corpi, per usare l'espressione di Agamben, no? Ecco, e fermiteci a notare come questa concezione pragmatica del corpo strumentale prevale in tutta l'opera di Bergson, tranne che nell'ultimo libro, dove era perché le due fonti della morale e della religione, del 1932, nel quale evidentemente la questione non è più quella della questa concezione più sostanzialmente pragmatica del corpo, ma diventa la questione dell'uso del corpo e di quella protesi del corpo che è la tecnica stessa, no? Che è quindi mi pare che questa sia, e chiedeva se anche questo è reperibile all'interno del percorso plotiniano. Ma secondo me è evidente che Bergson cioè, ha delle esperienze che Plotino non ha potuto avere, perché l'ipertrofia tecnica dalla rivoluzione industriale in poi Plotino, per sua fortuna o sfortuna, non l'ha vissuta. Quindi ci sono dei punti in cui per forza c'è un gap storico incolmabile per certi versi, cioè veramente l'ipertrofia della tecnica Bergson ce l'ha sotto gli occhi e Plotino no, perché nel frattempo c'è stata la rivoluzione industriale. Però secondo me anche in Plotino, come si diceva a proposito della osservazione del professor Cozzano, c'è il problema del buon uso del corpo, perché abbiamo detto che solo il filosofo sa usare bene il corpo, gli altri no. Solo il filosofo è il vero padrone del corpo, cioè solo perché è il buon uso dello strumento corporeo? Perché è l'anima che dirige, cioè il cattivo uso del corpo, mi sembra, sia in Plotino che in Bergson, sia sempre quello in cui si invertono i ruoli, cioè in cui il corpo, lo strumento, prende troppo spazio. Allora, questo corpo tecnico ipertrofico, in Bergson, questo corpo tecnico ormai invadente rispetto al quale l'anima si è ridotta a pochissimo, mentre dovrebbe essere lei il capo di questo corpo, anche se ipertrofico, anche in Plotino, se noi vogliamo, l'incontinente, lo stolto, colui che non è saggio, che non è filosofo, è quello in cui l'anima è ridotta a uno spettro di se stessa, non comanda più, non usa più per le sue esigenze il corpo. Cioè, se dovessi dire un elemento comune, però i bergsoniani mi correggeranno, tra Plotino e Bergson, il buon uso del corpo, qualunque esso sia, se il fine è stato deciso dall'anima, e il cattivo uso, qualunque esso sia, se infine non è stato deciso dall'anima, ma è piuttosto l'anima che è servita, che serve all'ipertrofia corporea o tecnica. Plan autant je puisse en juger, le plan de, sur lequel se situe Bergson, il y a une vraie différence là ici, enfin, peut-être je me trompe, mais voilà, parce que vraiment c'est par analogie qu'on dit que l'âme bâtit et l'âme ne bâtit pas. Et évidemment la question du traité 26, c'est de savoir pourquoi chercher à rendre l'âme impassible alors que par essence elle est impassible. Pourquoi chercher la rendre impassible? C'est toute la question de la philosophie. Se ho ben capito, perché cercare di rendere l'anima impassibile? Cioè, perché l'esercizio filosofico? No? L'esercizio filosofico, si diceva, consiste nel rendere l'anima, rendere l'anima capace di questa impassibilità. Bene, allora perché renderla impassibile se l'anima è impassibile, se sono stati citati tutta una serie di passi di Plotino in cui Plotino dice che l'anima non patisce, no? non è lei a patire? E questa è la questione che emerge, la premessa di questa questione è che forse la questione dell'uso dei corpi, dell'uso del corpo, non è la questione centrale per affrontare la questione dell'anima in Plotino. Sì, sì. Allora, è chiaro, giustissimo richiamare questa polemica plotiniana contro gli stoici, perché per gli stoici l'anima è corporea e se è corporea patisce tanto quanto il corpo è affetta. Quindi Plotino, contro gli stoici, vuole affermare sia che l'anima non è corpo, e sia che non patisce, quindi. Poi, l'anima è per natura impassibile. Allora, perché Plotino insiste tanto su questa impassibilità dell'anima se è un dato di partenza? Vi insiste perché, a mio avviso, c'è la caduta dell'anima. Cioè, c'è quello che Plotino dice all'inizio del Trattato 10, le anime, incarnandosi in un corpo e lasciandole intelligibili, si sono scordate chi sono. Quindi la natura dell'anima resta sempre intelligibile, ma il soggetto umano si è scordato della natura dell'anima, non sa più chi è, da dove viene, dice Plotino all'inizio del Trattato 10, le anime si sono scordate del loro padre, come di bambini che cresciuti lontano dai genitori non li sanno riconoscere. Quindi sì, genitori né loro stessi, cioè se uno dimentica l'origine non sa più chi è. Quindi verissimo che la natura dell'anima, comunque anche incarnata in un corpo, è impassibile, ma il problema che è l'uomo che deve capire che ha una natura impassibile e che deriva da un mondo incorporeo e impassibile, e questo è il cammino della filosofia in qualche modo, che ha una retombe però anche nel rapporto dell'anima con il corpo. Io questo discorso proprio, l'anima non patisce il corpo, ma si interroga sul fatto se il corpo invece patisca l'anima, cioè per esempio la malattia possa essere un il discorso prima che faceva dell'occhio, non è l'anima che subisce il corpo, ma il corpo che subisce l'anima. Allora, sì, questo forse. Allora, nel resto del trattato sul vivente, Plotino, quando appunto sposa un modello esplicativo che non è quello strumentalistico, ma quello di una simbiosi di anima e corpo nel vivente, porta appunto dei casi in cui sia l'anima influenza il corpo, sia il corpo l'anima, e c'è comunque un esempio classicissimo da Aristotele in poi, che è quello dell'ira come fenomeno insieme psichico e corporeo, no? L'ira è quel fenomeno in cui c'è proprio una simbiosi tra il sangue che ribolle e il sentimento di dolore, desiderio di vendetta dell'anima. Quindi effettivamente tutta questa fenomenologia di somatizzazione degli stati dell'anima o di recezione da parte dell'anima di malattie o benessere del corpo sono presi in considerazione da Plotino, ma appunto in quella parte, tra l'altro, del trattato sul vivente in cui ormai lo strumentalismo è stato messo da parte. questa traiettoria da Platone a Plotino che abbiamo esposto, Aristotele, potremmo, lo poniamo? Potremmo magari vedere che Plotino si avvicina maggiormente ad Aristotele piuttosto che a Platone, come anche rispetto per la critica al modello del Demiurgo, oppure... Guardi, leggiamo magari il testo T5, che è proprio di Aristotele, che finora non ho letto, sull'Endaus, Aristotele de Anima, libro secondo, capitolo 4. Infatti, i corpi naturali costituiscono degli strumenti dell'anima, e ciò che è vero nel caso degli animali lo è anche nel caso delle piante, nel senso che essi esistono per i fini dell'anima. Allora, potrebbe sembrare molto strano. Cioè, la sua domanda mi serve a mostrare sia la vicinanza di Plotino con Aristotele sia la sua distanza. Perché? C'è una distanza di fondo, perché Plotino, nel trattato secondo, contesta la visione aristotelica che l'anima, la visione ilemorfica, se vogliamo, che l'anima sia semplicemente forma inseparabile del corpo. Per Plotino l'anima né è un corpo, come volevano gli stoici, ma anche Epicuro, né è di un corpo, perché l'anima aristotelica è forma inseparabile di un corpo, in questo senso è di un corpo. Morto quel corpo, quell'anima, quella forma che era inseparabile perisce insieme al corpo. Non di meno, questo passo aristotelico è abbastanza in sintonia col Plotino del Trattato sul Vivente, in cui c'è questa simbiosi e in cui appunto Aristotele allarga questa visione non solo all'essere umano, ma in tutto, c'è anche nelle piante, anche negli animali, c'è questo rapporto in cui mi sembra, nella visione aristotelica, che il corpo è positivamente uno strumento per nutrirsi, per l'esistenza stessa del vivente, per riprodursi, per sentire, eccetera, però guardate bene il finale della frase: per i fini dell'anima. Quindi, nonostante l'immanentismo della forma aristotelica rispetto al corpo, tuttavia c'è questo fatto che il fine lo dà la vita, l'anima, pur non essendo la sostanza separata plotiniana e platonica, e questa idea che i fini li dà l'anima possono, è una cosa che può benissimo essere accolta da Plotino, per cui l'anima deve comandare, pur tenendo salva la distinzione che per Plotino l'anima è una sostanza separabile e separata dal corpo. Bene, mi dovrebbe dire un'altra cosa. Tu dici la concezione strumentale dell'anima, no? Che vale come ipotesi, no? Plotiniana, per quello che riguarda il rapporto anima e corpo. Poi fai un'osservazione, che appunto anche un lettore analfabeta di Plotino come me in questo caso riesce a seguirti, cioè tu dici, però attenzione, quando parliamo della protos, no? Quando parliamo del processo, quando parliamo della creatività dell'essere, a questo punto non possiamo più usare la concezione strumentale, non possiamo immaginare che Dio abbia mani e piedi, no? E quindi dobbiamo abbandonare la concezione strumentale nel momento in cui entriamo in una dimensione ontologica, cioè entriamo nella... Ecco, a me pare che questo sia in qualche modo lo specifico del... Adesso lo accenno soltanto, ma ti chiedevo cosa ne pensi. Lo specifico del rapporto Bergson-Plotino, cioè proprio questo passaggio qui, cioè in qualche modo la metafisica della durata creatrice, l'evoluzione creatrice, riprendono questa idea di una, come dire, di una messa in epoché della causalità strumentale, cioè non c'è un processo di individuazione sul modello dell'artigiano che prende la materia e la lavora, e l'ipotesi che il processo si faccia attraverso un altro tipo di causalità, che non è quella strumentale. Però sostanzialmente, se Bergson, se Bergson formula questa ipotesi, la formula anche alla luce di Plotino, proprio perché vede l'anima di Plotino funzionare secondo questa ipotesi, cioè un'ipotesi che non è strumentale. Eppure secondo me, però questo... non lo dice, lo dice. Cioè, parla di Plotino quando lo deve criticare. No, volevo solo dire, secondo me qui c'è l'aspetto, per dire, non strumentale. Eppure secondo me, e sono d'accordo, cioè... quella che Jean Trouillard, parlando di Proclo, chiamava la creazione non attraverso il fare ma l'essere, questa viene da Plotino e Bergson, da quello che capisco, ce l'ha pure lui. Però la via dell'A a Plotino è mio patronice. Allora, se non ci sono altre questioni, ci diamo appuntamento alle 3, sempre qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.